riflettuto su tanti punti questa mattinata. Abbiamo l'onore di avere anche un contributo registrato grazie alle compagne del martedì autogestito femminista e lesbico di Roma a Pinar Selek, che tra poco insomma vi presenteremo. Era a Roma in questi giorni, le compagne le hanno fatto una lunga intervista di un paio d'ore che andrà poi in onda all'interno degli spazi di Onda Rossa, che troverete in rete, ma siamo riuscite insomma grazie appunto alle compagne romane a fare qualche domanda anche noi a Pinar Selek. Pinar Selek, femminista, antimilitarista, fa parte del collettivo Amargi. Perseguitato dalla giustizia turca, vive in esilio dal 2009. Seydar Selek è la sua avvocata e fa anche lei parte del collettivo Amargi. Nel 1998, a seguito della sua ricerca sociologica sul conflitto armato tra Turchia e Kurdistan, Pinar viene arrestata e pesantemente torturata per essersi rifiutata di rivelare i nomi degli esiliati curdi che aveva intervistato. Con l'arresto il suo lavoro di ricerca viene sequestrato. In carcere viene informata di essere accusata di un presunto attentato, rivelatosi poi un incidente, avvenuto nel 1998 a Istanbul. Pinar rimarrà 2 anni e mezzo in carcere. Liberata nel dicembre del 2000, è stata definitivamente assolta nel 2006, dopo un processo durato più di 5 anni. Nel marzo 2009 il suo caso, che era stato chiuso, viene riaperto e lei si trova di nuovo sotto la minaccia di un processo in cui rischia 36 anni di carcere. L'accanimento dello Stato turco continua a tutt'oggi. Pinar fa parte del collettivo femminista Margie, come abbiamo detto, che dal 2001 è attivo a Istanbul e Ankara nella lotta contro la violenza sulle donne, la militarizzazione della società e per la diffusione del femminismo in Turchia. La sua ricerca militante ha indagato le strutture repressive all'interno della società, le dinamiche politiche d'esclusione e marginalizzazione, le esperienze concrete di percorsi di liberazione individuali e collettivi, la costruzione della mascolinità all'interno di contesti militari. Pinar è militante di gruppi antimilitaristi, anti-eterosessisti e pacifisti. Ebbene, quindi adesso vi mandiamo questo contributo registrato dalle compagne romane a Pinar Selek. Sono all'incirca 5 minuti, l'intervista in francese, la blocchiamo ogni tanto per fare la traduzione, per tradurvi appunto dal francese. Très important, come on dit. Moi, j'ai fait une recherche sur les comment dire, constructions de masculinité dans l'armée et surtout dans le service militaire. Maintenant, en Italie, vous n'avez pas un service militaire comme nous, pas une obligation comme nous, mais nous avons une obligation et ça devient un mécanisme de construction de masculinité. Ho fatto una ricerca sulla costruzione della mascolinità nell'esercito, soprattutto nel servizio militare. In Italia oggi non esiste più un servizio militare quale quello che c'è da noi, non è più obbligatorio come da noi, diventa una sorta di meccanismo di costruzione della mascolinità. Nous avons 5 étapes pour que un homme devienne un homme dans la société. Première étape, c'est circoncision. Deuxième, service militaire. Troisièmement, trouver un travail. Quatrièmement, trouver une femme, posséder une femme. Cinquièmement, avoir au moins un enfant d'elle. E ci sono 5 tappe attraverso le quali un uomo diventa uomo nella nostra società. La prima tappa è la circoncisione, la seconda è il servizio militare, la terza trovarsi un lavoro, la quarta trovarsi una donna e possederla naturalmente, e la quinta avere almeno un figlio da lei. Cinque tappe sono molto importanti per le donne. Allora, moi, j'ai voulu faire cette recherche parce que j'ai voulu regarder à cette, comment dire, homo sociale. Dans son genre, pour regarder, parce que c'est un commun laboratoire de la société. Parce que plein des hommes, plein de différents, des hommes de différents milieux, des hommes de différents milieux se rencontrent là-bas. Et tu peux voir plein de choses, les hiérarchies entre comment ils se partagent, comment ils créent des modèles, et comment ils soumettent. Comment ils se soumettent et comment ils apprennent, comment ils sont valorisés et dévalorisés. E allora io ho voluto fare questa ricerca perché ho voluto prendere in considerazione questo spazio, per così dire, omosociale, si riferisce ovviamente al servizio militare, considerandolo come un laboratorio sociale, perché vi si incontrano uomini di differenti estrazioni sociali e al contempo ho voluto analizzare come si creano gerarchie tra loro, come si ripartiscono in gruppi, si creano dei modelli, come si sottomettono secondo diverse modalità di valorizzazione e svalutazione. E come il grand chef, l'État, il grand masculin, l'État, come il en le féminisant, come il le défeminise, parce que en le féminisant, c'est en les humiliant pour eux, parce que il dit que allora, virilisation, ça veut dire defeminisation. E ho voluto anche analizzare come il gran capo, il maschile con la M maiuscola, ovvero lo Stato, li femminilizza e li defemminilizza, nella misura in cui femminilizzarli, gli uomini che fanno il servizio militare, significa umiliarli. Per lo Stato, virilizzazione significa defemminilizzazione. Pulletta. Alors, en les féminisant, en disant que je vous humilie maintenant, c'est être comme une femme. Alors, les hommes, vraiment, en s'humiliant, en se sentant humilié, toujours ils veulent prouver leur virilité. Alors, il y a plein de choses qu'on peut parler sur ce processus, vraiment, parce que après tu peux voir plein de choses dans les sociétés, dans les entreprises, dans plein de endroits. Mais vraiment, le service militaire est un laboratoire qui montre plein de choses. Par exemple. Quindi per lo Stato virilizzazione significa defemminilizzazione, quindi gli uomini sentendosi umiliati vogliono continuamente o comunque sono continuamente spinti a provare la propria virilità. Il processo in atto in questo caso è davvero molto interessante perché nella società ci sono molti contesti, ambiti a cui si potrebbe guardare, ma nel caso del servizio militare siamo di fronte ad un vero e proprio laboratorio sociale. Quand il entre ensemble comme ça, ils doivent se déshabiller. Tout le monde se déshabille. On enlève tous les poils. Rasés. Tout. Après, on les distribue des vêtements. Ils se mettent. Mais dans 5 minutes, parce qu'il est des cris, vite. Si tu ne fais pas, on t'écrase, on te bat. Il y a beaucoup de violence. Alors, dans 2 minutes, après, tout le monde va devant le miroir et il cherche leur visage. Il ne le trouve pas. Il dit que non, c'est pas moi. Ils ne se connaissent pas. Alors, ça montre, c'est comme un symbole qui montre très bien comment nous devons mettre les costumes des genres, que le système dans le service militaire, c'est plus brut. Mais vraiment, dans le système de médias, de plein de choses, nous avons plein d'uniformes, plein de costumes que nous devons... Quindi appunto parla del servizio militare come un vero e proprio laboratorio sociale, spiega come avviene l'ingresso sostanzialmente degli uomini, devono spogliarsi, vengono rasati, ricevono degli abiti, tutto avviene assolutamente molto in fretta, in modo traumatico, molto violento, gli si urla addosso in fretta, presto, altrimenti si viene picchiati, si viene pestati. Poi questi uomini che hanno subito appunto questo processo traumatico in cui sono stati spogliati, rasati eccetera, vanno davanti allo specchio e non si riconoscono più, non si ritrovano più, non trovano più la loro immagine. E questo mostra bene come funziona nella società e nel sistema dei media, al di là del contesto militare in cui ciò avviene in modo molto brutale, l'obbligo di indossare gli abiti di genere. Quindi poi Pinar Selek termina l'intervista dicendo: siamo pieni di abiti, di uniformi che dobbiamo indossare. Ci sono poi ancora un minutino di intervista che però non riusciamo a mandarvi in onda perché l'audio è davvero molto disturbato, in cui Pinar Selek termina l'intervista salutando tutte le donne e dando anche lei un attestato di solidarietà alla donna che sta subendo questo processo all'Aquila. E ci ricolleghiamo ad un'altra intervista uscita su Marie Claire qualche mese fa, che ha un passaggio interessante perché mette in evidenza il nesso stato, divise, educazione alla mascolinità e alla violenza misogina. Pinar appunto racconta che la società turca è piena di contraddizioni, le spinte al cambiamento sono forti e il potere reagisce con durezza. In particolare le donne si ribellano e più diventano consapevoli più cresce la repressione. Ha scritto un saggio sulla virilità negli ambienti del servizio militare, che da noi suonerebbe Vita da cani, così si intitola. In Turchia ha avuto enorme risonanza perché per la prima volta qualcuno, una donna, osava entrare nel cuore del sistema macista per eccellenza e mostrarne la fragilità. I suoi colloqui con uomini di età, religione, cultura e orientamento sessuale diversi portano dunque alla conclusione che i maschi vivono schiacciati da una mentalità di dominio che snatura i rapporti e genera violenza. Non è un caso che ogni giorno in Turchia ci sia una donna uccisa da un uomo. Dice: da noi si crede che la virilità dipenda dalla difesa della patria, della famiglia e dal controllo della donna. È lo Stato a inculcare il senso dell'onore nei ragazzi durante il servizio militare a prezzo di terribili umiliazioni. I più forti costringono i più deboli a fare le donne, a pulire, cucinare, sottomettersi. Così costruiscono un meccanismo di violenza che si ritorcerà contro le mogli e le figlie quando i soldati diventano uomini e torneranno a casa. Uomini e donne recitano ruoli secolari in cui non si riconoscono e questa finzione uccide l'amore impedendo relazioni autentiche. Quindi smontare questa costruzione del potere maschile vuol dire liberare le donne, ma anche restituire gli uomini a loro stessi.